Le sorprese della scienza, dalla quinta raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Egi. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Le sorprese della scienza. Avevo ben capito che l'amico Tucci, nell'invitarmi con quelle sue calorose e pressanti lettere a passare l'estate a Milocca, in fondo non desiderava tanto di procurare un piacere a me, quanto a se stesso il gusto di farmi restare a bocca aperta mostrandomi ciò che aveva saputo fare con molto coraggio in tanti anni di infaticabile operosità. Aveva preso a suo rischio e ventura certi terreni paludosi che ammorbavano quel paese e ne aveva fatto i campi più ubertosi di tutto il circondario, un paradiso. Non mi faceva grazia nelle sue lettere di nessuno dei tanti palpiti che quella bonifica gli era costata e di nessuno dei tanti mezzi escogitati, dei tanti guai che gli erano diluviati, di nessuna delle tante lotte sostenute, lui, solo, contro Milocca tutta. Lotte rusticane e lotte civili. Per invogliarmi, forse maggiormente, nell'ultima lettera mi diceva, tra l'altro, che aveva preso in moglie una saggia massaia, massaia in tutto, 8 figliuoli in 8 anni di matrimonio, 2 a un parto e 1/9 per via, che aveva anche la suocera in casa, bravissima donna che gli voleva un mondo di bene, e anche il suocero in casa, perla d'uomo, dotto latinista e mio sviscerato ammiratore. Sicuro, perché la mia fama di scrittore era volata fino a Milocca, da che in un giornale si era letto non so che articolo che parlava di me ed un mio libro, dove c'era un uomo che moriva 2 volte. Leggendo quell'articolo di giornale, l'amico Tucci si era ricordato ad un tratto che noi eravamo stati compagni di scuola, tant'anni, al liceo e all'università, e aveva parlato entusiasticamente del mio straordinario ingegno a suo suocero, il quale subito s'era fatto venire il libro di cui quel giornale parlava. Ebbene, confesso che proprio quest'ultima notizia fu quella che mi vinse. Non capita facilmente agli scrittori italiani la fortuna di veder la faccia da bene d'uno dei 3 o 4 acquirenti di qualche loro libro ben avventurato. Presi il treno e partii per Milocca. 8 ore buone di ferrovia e 5 di vettura. Ma piano con questa vettura. 100 anni fa, non dico, sarà anche stata non molto vecchia. Forse qualche molla 100 anni fa doveva averla ancora, anche se 3 o 4 razzi delle ruote davanti e 5 o 6 di quelle di dietro erano di già torti di spago così come si vedevano adesso. Cuscini non ne parliamo. Là, sulla tavola nuda, e bisognava sedere in punta, per cansare il rischio che la carne rimanesse presa in qualche fessura, giacché il legno, correndo, sganasciava tutto. Ma piano con questo correre, doveva dirlo la bestia, e quella bestia lì non diceva nulla, s'aiutava perfino col muso a camminare. Sì, 100.000 volte, sì, scambio dei piedi, voleva metterci le froge per terra, come ce le metteva. Povera decrepita, rozza, tanto gli zoccoli sferrati le facevano male. E quel boia di vetturino, intanto, aveva il coraggio di dire che bisognava saperla guidare, lasciarla andare col suo verso, perché ombrava, ombrava, e a frustarla, ritta gli si levava come una lepre certe volte, quella bestiaccia lì. E che strada! Non posso dire d'averla proprio veduta bene tutta quanta, perché in certi precipizi vidi piuttosto la morte con gli occhi. Ma c'erano poi le pettate che me la lasciavano ammirare per tutta un'eternità, tra i cigolii del legno e il soffiar di quella rozza sfiancata che accorava. Da quanti mai secoli non era stata più riattata quella strada? «Il pan delle vetture e il brecciale», mi spiegò il vetturino, «se lo mangiano con le ruote. Quando manchi il brecciale, si mangiano la strada». E se l'erano mangiata bene, oh, quella strada! Certi solchi che, a infilarli, non dico, ci s'andava meglio che in un binario, da non muoversene più, però, badiamo. Ma a cascarci dentro per uno spaglio della bestia, si ribaltava come vero Dio, ed era grazia cavarne sano l'osso del collo. «Ma perché le lasciano così senza pane le vetture, a Milocca?» domandai. «Perché?» «Perché c'è il progetto», mi rispose il vetturino. «Il progetto, sì signore. Anzi, tanti progetti ci sono. C'è chi vuol portare la via ferrata fino a Milocca e chi dice il tram e chi l'automobile. Insomma, si studia, ecco, per poi riparare come faccia meglio al caso. E intanto? Intanto io mi privo di comperare un altro legno e un'altra bestia, perché, capirà, se mettono il treno o il tram o l'automobile, posso fischiare». Arrivai a Milocca a sera chiusa. Non vidi nulla, perché secondo il calendario doveva esserci la luna quella sera. La luna non c'era. I lampioni a petrolio non erano stati accesi e dunque non ci si vedeva neanche a tirar moccoli. Villa Tucci era circa mezz'ora dal paese. Ma o che la rozza veramente non ne potesse più, o che avesse fiutato la rimessa lì vicina, come diceva sacrando il vetturino, il fatto è che non volle più andare avanti, nemmeno d'un passo. E non seppi darle torto io. Dopo 5 ore di compagnia, m'ero quasi quasi medesimato con quella bestia. Non avrei voluto più andare avanti, neanch'io. Pensavo, chissà, dopo tant'anni, come ritroverò Merigo Tucci. Già me lo ricordo così in nebbia. Chissà come si sarà abbruttito a furia di batter la testa contro le dure, stupide realtà quotidiane d'una meschina vita provinciale. Da compagno di scuola, egli mi ammirava, ma ora vuole essere ammirato lui da me, perché, buttati via i libri, s'è arricchito. Mentre io, là, potrò farmi giulebbare dal suocero, dotto latinista, il quale, figuriamoci, mi farà scontare a sudore di sangue le 3 lirette spese per il mio libro. E 8 marmocchi, poi, e la suocera. Dio immortale, e la nuora buona massaia. E questo paese che Tucci mi ha decantato ricchissimo e che intanto si fa trovare al buio, dopo quella stradaccia lì e questo legnetto qua per accogliere gli ospiti. Dove son venuto a cacciarmi? Mentre mi pascevo comodamente di queste dolci riflessioni, la rozza piantata lì sui 4 stinchi si pasceva a sua volta d'una tempesta di frustate, imperturbabilmente. Alla fine il vetturino, stanco morto di quella sua gran fatica, disperato e furibondo, mi propose di andare a piedi. «È qui vicino, la valigia gliela porto io». «E andiamo, su, sgranchiremo le gambe», dissi io smontando. «Ma la via è buona, almeno, con questo buio». «Lei non tema, andrò io avanti. Lei mi terrà dietro, piano piano, con giudizio». Fortuna che era buio. Quel cocchio non vede, cuore non crede. Quando però il giorno dopo vidi quell'altra strada lì, restai basito. non tanto perché c'ero passato quanto per il pensiero che se Dio misericordioso aveva permesso che non ci lasciassi la pelle, chissà quali terribili prove vuol dire che m'ha predestinato. Fu così forte l'impressione che mi fece quella strada e poi l'aspetto di quel paese, squallido, nudo, in desolato abbandono, come dopo un saccheggio o un orrendo cataclisma, senza vie, senza acqua, senza luce, che la villa dell'amico mio e l'accoglienza che gli mi fece con tutti i suoi e l'ammirazione del suocero e via dicendo, mi parvero rose a confronto. «Ma come?» disse al Tucci. «Questo è il paese ricco e felice, tra i più ricchi e felici del mondo». E Tucci, socchiudendo gli occhi, «Questo, e te ne accorgerai». Mi venne di prenderlo a schiaffi, perché non s'era mica incretinito quel pezzo d'omaccione là. Pareva anzi che l'ingegno naturale, con l'alacrità e l'esperienza della vita, nelle dure lotte contro la terra e gli uomini, gli si fosse ingagliardito e acceso, e gli sfolgorava dagli occhi ridenti, da cui io, sciupato e immalinconito dalle vane brighe della città, roso dalle artificiose assidue cure intellettuali, mi sentivo commiserato e deriso a un tempo. Ma sì, ad onta delle mie previsioni, dovevo riconoscer lui, Merigo Tucci, degno veramente d'ammirazione, quel paesettaccio no, e poi no, per Dio. Ricco, felice. «Mi canzoni?» gli gridai. «Non avete neanche acqua per bere e per lavarvi la faccia, case da abitare, strade per camminare, luce la sera per vedere dove andate a rompervi il collo, e siete ricchi e felici?» «Vala, ho capito, sai, la solita retorica. La ricchezza e la felicità nella beata ignoranza, è vero? Vuoi dirmi questo?» «No, al contrario», mi rispose Merigo Tucci con un sorriso, opponendo studiatamente alla mia stizza altrettanta calma. «Nella scienza, caro mio, la felicità nostra è fondata nella scienza più occhialuta che abbia mai soccorso la povera industre umanità». «Oh sì, staremmo freschi veramente se fossero ignoranti i nostri amministratori. Tu mi insegni che salvaguardia può essere più l'ignoranza in tempi come i nostri. Promettimi che non mi domanderai più nulla fino a questa sera. Ti farò assistere a una seduta del nostro consiglio comunale. Appunto, questa sera si discuterà una questione di capitalissima importanza, l'illuminazione del paese. Tu avrai dalle cose stesse che vedrai e sentirai la dimostrazione più chiara e più convincente di quanto ti ho detto. Intanto, la ricchezza nostra è nelle meravigliose cascate di chiarenza che ti farò vedere e nelle terre che sono, grazie a Dio, così fertili, che ci dan 3 raccolti all'anno. Ora vedrai, vieni con me». Passò tutto. Mi sobbarcai a tutto. Mi sorbii come dei cottini a digiuno tutti gli spassi e le distrazioni della giornata, col pensiero fisso alla dimostrazione che dovevo avere quella sera al municipio della ricchezza e della felicità di Milocca. Tucci, ad esempio, mi fece visitare palmo per palmo i suoi campi. Gli sorrisi. Mi fece una nuova e più diffusa spiegazione della sua grande impresa lì, sui luoghi. Gli sorrisi. E davvero l'impeto delle correnti aveva sgrottato tutte le terre e a lui era toccato asciugare e rialzar le campagne corredandole della belletta, del grassume prezioso. «Sì, davvero? Oh, che piacere!» Gli sorrisi. «Ma far la roba è niente. A governarla ti voglio». E dunque gli ulivi si governano ogni 3 anni con 3 o 4 corbelli di sugo sostanzioso. Pecorino? Sì, davvero, oh, che piacere! E gli sorrisi, anche quando in cantina, con un'aria da Carlo Magno, mi mostrò quattro lunghe andane di botti e anche lì mi spiegò come valga più saper governare il tino che la botte e come egli facesse più colorito il vino e come gli accrescesse forza e corpo mescolandovi certe qualità d'uve scelte, spicciolate, ammostate da sé, senza mai erbe, mai foglie di sambuco o di tiglio, mai tannino o gesso o catrame. E sorrisi anche quando, più morto che vivo, rientrai in villa e mi vidi venire incontro la tribù dei marmocchi in processione, i quali, mostrandomi rotti i giocattoli che avevo loro donati la sera avanti, mi domandavano con un lungo, strascicato lamento, uno dopo l'altro, tra lacrime senza fine, «Perché questo m'hai portato? Perché questo m'hai portato?» Carini, carini, carini. E sorrisi anche al suocero, mio ammiratore, il quale, sì signori, era cieco. Cieco da circa 10 anni e del mio libro non conosceva che qualche paginetta che il genero gli aveva potuto leggere di sera, dopo cena. Voleva egli ora che glielo leggessi io, il mio libro? Ma subito, e fu una vera fortuna per lui, che non potesse vedere il mio sorriso e tutti quelli che gli porsi poi, ogni qualvolta il brav'uomo, che era straordinariamente erudito, mi interrompeva nella lettura, quasi a ogni rigo, per domandarmi con buona grazia se non credessi per avventura che avrei fatto meglio a usare un'altra parola invece di quella che avevo usato, o un'altra frase, o un altro costrutto, perché Daniello Bartoli, sicuro, Daniello Bartoli. Finalmente arrivò la sera. Ero vivo ancora, non avrei saputo dir come, ma vivo, e potevo aver la famosa dimostrazione che Tucci mi aveva promesso. Andammo insieme al municipio per la seduta del consiglio comunale. Era, come la maestra e donna di tutte le case del paese, la più squallida e la più scura. Una catapecchia grave in uno spiazzo sterposo, con in mezzo un fosco cisternone abbandonato. Vi si saliva per una scalaccia buia, intanfata d'umido, stenebrata a malapena da due tisici lumini filanti di quelli con le spere di latta, appiccati al muro quasi per far vedere come ornati di stucco. No, per dir la verità, non ce ne fossero, ma gromme di muffa, sì, e tante. Saliva con noi una moltitudine di gente, attirata dalla discussione di gran momento che doveva svolgersi quella sera. Saliva con un contegno, anzi, con un cipiglio, che doveva per forza meravigliare uno come me, abituato a non veder mai prendere sul serio le sedute d'un consiglio comunale. La meraviglia mi era poi accresciuta, dall'aria, dall'aspetto di quella gente, che non mi pareva affatto così sciocca da doversi con tanta facilità contentare d'esser trattata com'era, cioè a modo di cani, dal municipio. Tucci fermò per la scala un tozzo macciotto aggrondato, barbuto, rossigno, che evidentemente non voleva esser distratto dai pensieri che lo gonfiavano. «Zagardi, ti presento l'amico mio», e disse il mio nome. Quegli si voltò di mala grazia e rispose appena con un grugnito alla presentazione. Poi mi domandò a bruciapelo: «Scusi, com'è illuminata la sua città?» «A luce elettrica», risposi. E lui, cupo: «La compiango, sentirà stasera. Scusi, ho fretta». E via a balzi per il resto della scala. «Sentirai», mi ripeté Tucci, stringendomi il braccio, «è formidabile, eloquenza mordace, irruente, sentirai». «E intanto ha il coraggio di compiangermi?» «Avrà le sue ragioni. Su, su, affrettiamoci, o non troveremo più posto». La mastra sala, la sala del consiglio, rischiarata da altri lumini a cui quelli della scala avevano ben poco da invidiare, pareva un'aula di pretura delle più sudice e polverose. I banchi dei consiglieri e le poltrone di cuoio erano della più venerabile antichità, ma a considerarli bene nelle loro relazioni con quelli che tra poco avrebbero preso posto in essi e che ora passeggiavano per la sala, assorti, taciturni, ispidi come tanti coccomerelli selvatici pronti a schizzare a un minimo urto il loro sugo purgativo, pareva che non per gli anni si fossero logorati così, ma per la cura cupamente austera del pubblico bene, per i pensieri roditori che in loro, naturalmente, erano divenuti tarli. Tucci mi mostrò e mi nominò a dito i consiglieri più autorevoli. Lansatti, tra i giovani, rivale dello Zagardi, tozzo e barbuto anche lui, ma bruno. Il Colacci, vecchio gigantesco, calvo, sbarbato, dalla pinguedine floscia. Il Maganza, bell'uomo, militarmente impostato, che guardava tutti con rigidezza sdegnosa. Ma ecco, ecco il sindaco in ritardo, quello, sì, Anselmo Placci, tondo, biondo, rubicondo. Quel sindaco stonava. «Non stona, vedrai», mi disse Tucci, «è il sindaco che ci vuole». Nessuno lo salutava, solo il Colacci, gigantesco, gli s'accostò per battergli forte la mano sulla spalla. Egli sorrise, corse a prender posto sul suo seggio, asciugandosi il sudore, e suonò il campanello mentre il capo usciere gli porgeva la nota dei consiglieri presenti. Non mancava nessuno. Il segretario, senza aspettar l'ordine, aveva preso a leggere il verbale della seduta precedente, che doveva essere redatto con la più scrupolosa diligenza, perché i consiglieri che lo ascoltavano, accigliati, approvavano di tratto in tratto col capo e, infine, non trovarono nulla da ridire. Prestai ascolto anch'io a quel verbale, volgendomi ogni tanto, smarrito e sgomento, a guardare l'amico Tucci. A proposito delle strade di Milocca, si parlava come niente di Londra, di Parigi, di Berlino, di New York, di Chicago, in quel verbale, e saltavano fuori i nomi di illustri scienziati d'ogni nazione e calcoli complicatissimi, astrusissime disquisizioni, per cui i capelli del magro, pallido segretario mi pareva si ritraessero verso la nuca man mano che gli leggeva e che la fronte gli crescesse mostruosamente. Intanto due o tre uscieri, zitti zitti, in punta di piedi, recavano a questo e a quel banco pile enormi di libri e grossi incartamenti. «Nessuno ha da fare osservazioni al verbale?» domandò alla fine il sindaco, stropicciandosi le mani paffutelle e guardando in giro. «Allora si intende approvato. L'ordine del giorno reca: discussione del progetto presentato dalla Giunta per un impianto idrotermoelettrico nel comune di Milocca. Signori consiglieri, voi conoscete già questo progetto e avete avuto tutto il tempo d'esaminarlo e di studiarlo in ogni sua parte. Prima di aprire la discussione, consentite che io, anche a nome dei colleghi della Giunta, dichiari che noi abbiamo fatto di tutto per risolvere nel minor tempo e nel modo che ci è sembrato più conveniente, sia per il decoro e per il vantaggio del paese, sia rispetto alle condizioni economiche del nostro comune, il gravissimo problema dell'illuminazione. Aspettiamo dunque fiduciosi e sereni il vostro giudizio, che sarà equo certamente, e vi promettiamo fin d'ora che accoglieremo ben volentieri tutti quei consigli, tutte quelle modificazioni che a voi piacerà di proporre, ispirandovi, come noi, al bene e alla prosperità del nostro paese. Nessun segno d'approvazione. E si levò prima a parlare il consigliere Maganza, quello dall'impostatura militaresca. Premise che sarebbe stato brevissimo, al solito suo, tanto più che per distruggere e atterrare quel fantastico edificio di carta pesta, SIC, che era il progetto della Giunta, poche parole sarebbero bastate. poche parole e qualche cifra. E punto per punto il consigliere Maganza si mise a criticare il progetto con straordinaria lucidità di idee e parola acuta e incisiva, il complesso dei lavori e delle spese, la sanzione che si doveva dare per l'acquisto della concessione dell'acqua di Chiarenza, i rischi gravissimi a cui sarebbe andato incontro il municipio, il rischio della costruzione, il rischio dell'esercizio, l'insufficienza della somma preventivata che saltava agli occhi di tutti coloro che avevano fatto impianti meccanici e sapevano come fosse impossibile contenere le spese nei limiti dei preventivi, specialmente quando questi preventivi erano fatti sopra progetti di massima e con l'evidente proposito di fare apparir piccola la spesa. Il carattere impegnativo che aveva l'offerta dell'accollatario, fermi restando i dati sui quali l'offerta medesima era fondata, dati che per forza il Consiglio avrebbe dovuto alterare con varianti e aggiunte ai lavori idraulici, con varianti aggiunte agli impianti meccanici, e ciò oltre a tutti i casi imprevisti e imprevedibili di forza maggiore e a tutte le accidentalità, incagli, intoppi che certamente non sarebbero mancati. Come poi fare appunti particolareggiati senza avere a disposizione i disegni d'esecuzione e i dati necessari? Eppure due enormi lacune apparivano già evidentissime nel progetto. Nessuna somma per le spese generali, mentre ognuno comprendeva che non si potevano eseguire lavori così grandiosi, così estesi, così vari e delicati, senza gravi spese di direzione e di sorveglianza, e spese legali e amministrative. E l'altra lacuna, ben più vasta e profonda, la riserva termica che in principio la Giunta sosteneva non necessaria e che poi, finalmente, ammetteva. E qui il consigliere Maganza, con l'aiuto dei libri che gli avevano recati gli uscieri, si sprofondò in una intricatissima, minuziosa confutazione scientifica, parlando della forza dei torrenti, delle cascate, di prese, di canali, di condotte forzate, di macchinari, e di condotte elettriche, e delle relazioni da stabilire tra riserva termica e forza idraulica, oltre la riserva degli accumulatori. Citando la società Edison di Milano e l'Alta Italia di Torino, e ciò che per simili impianti si era fatto a Vienna, a Pietroburgo, a Berlino. Eran passate circa 2 ore e il brevissimo discorso non accennava ancora di finire. Il pubblico, stipato, pendeva dalle labbra dell'oratore, per nulla oppresso da tanta copia d'irta, spaventevole erudizione. Io quasi non tiravo più fiato, eppure lo stupore mi teneva lì, con gli occhi sbarrati e a bocca aperta. Ma, alla fine, il Maganza, mentre il pubblico s'agitava, non già per sollievo, anzi per viva ammirazione, concluse così. «La dura esperienza in altre città, o signori, ha purtroppo dimostrato che gli impianti idrotermoelettrici sono della massima difficoltà e serbano dolorosissime sorprese. Nessuno può far miracoli, e tanto meno sulla base d'un così fatto progetto potrà farne il municipio di Milocca». Scoppiarono frenetici applausi e il consigliere Ansatti si precipitò dal suo banco ad abbracciare e baciare il Maganza. Poi, rivolto al pubblico e ritornando man mano al suo posto, prese a gridare tutto infuocato con violenti gesti. «Si osa proporre, o signori, oggi! Oggi, come se noi ci trovassimo 10 o 20 anni addietro, al tempo di Galileo Ferraris, si osa proporre un impianto idrotermoelettrico a Milocca. Ah, come mi metterei a ridere se potesse parermi uno scherzo! Ma coi denari dei contribuenti, o signori della giunta, non è lecito scherzare, ed io non rido, io mi infiammo, anzi disdegno. Un impianto idrotermoelettrico a Milocca, quando già spunta sull'orizzonte scientifico la gloria consacrata di Pictet. Non vi farò il torto di credere, o signori, che voi ignoriate chi sia l'illustre professor Pictet, colui che con un processo di produzione economica dell'ossigeno industriale prepara una memoranda rivoluzione nel mondo della scienza, della tecnica e dell'industria, una rivoluzione che sconvolgerà tutto il macchinismo della vita moderna, sostituendo questo nuovo elemento di luce e di calore a tutti quelli di potenza molto minore che finora sono in uso. E con questo tono e con crescente fuoco, il consigliere Ansatti spiegò al pubblico, attonito e affascinato, la scoperta del Pictet e come col sistema da lui inventato le fiamme delle reticelle Auer sarebbero arrivate alle altissime temperature di 3000 gradi, aumentando di ben 20 volte la loro luminosità, e come la luce così ottenuta sarebbe stata, a differenza di tutte le altre, molto simile a quella solare. E che se poi al posto del gas si fosse messa un'altra miscela derivante da un trattamento del carbon fossile col vapore acqueo e l'ossigeno industriale, il potere calorifico sarebbe aumentato di altre 6 volte. Mentre egli spiegava questi prodigi, il consigliere Zagardi, suo rivale, quello che mi aveva compianto per la scala, sogghignava sotto sotto. L'Ansatti se ne accorse e gli gridò: «C'è poco da sogghignare, collega Zagardi. Dico e sostengo di altre 6 volte. Ci ho qui i libri, te lo dimostrerò». E glielo dimostrò, difatti. E alla fine, balzando da quella terribile dimostrazione più vivo e più infocato di prima, concluse rivolto alla giunta: «Ora, in quali condizioni, o ciechi amministratori, in quali condizioni di inferiorità si troverebbero il municipio e il paese di Milocca, coi loro miserabili 1000 cavalli di forza elettrica, quando questo enorme rivolgimento sarà nell'industria e nella vita un fatto compiuto?» «Scusami», dissi io piano all'amico Tucci, mentre gli applausi scrosciavano nella sala con tale impeto che il tetto pareva ne dovesse subissare, «levami un dubbio. Non è intanto al buio il paese di Milocca?» Ma Tucci non volle rispondermi. «Zitto, zitto! Ecco che parla Zagardi, sta a sentire!» Il tozzo omacciotto barbuto s'era infatti levato col sogghigno ancora sulle labbra, torcendosi sul mento con gesto dispettoso il rosso pelo ricciuto. «Ho sogghignato», disse, «e sogghigno, collega Ansatti, nel vederti così tutto fiammante d'ossigeno industriale, paladino caloroso del professor Pictet. Ho sogghignato e sogghigno, collega Ansatti, non tanto di sdegno, quanto di dolore nel vedere come tu, così accorto, tu, giovane e vigile bracco della scienza, ti sia fermato alla nuova scoperta di quel professor francese e, abbagliato dalla luce 20 volte cresciuta delle reticelle Auer, non abbia veduto un più recente sistema di illuminazione che il municipio di Parigi va sperimentando per farne poi l'applicazione generale nella Ville Lumière. Io dico illusol, collega Ansatti, e non iscioglierò inni di gloria della nuova scoperta, perché non con gli inni si fanno le rivoluzioni nel campo della scienza, della tecnica e dell'industria, ma con calcoli riposati e rigorosi». E qui lo Zagardi, non smettendo mai di tormentarsi sul mento la barbetta rossigna, piano piano, col suo fare mordace e dispettoso, parlò della semplicità meravigliosa delle lampade a Lusol, nelle quali il calore di combustione dello stoppino e la capillarità bastavano a determinare senza alcun meccanismo l'ascesa del liquido illuminante, la sua vaporizzazione e la sua mescolanza alla forte proporzione d'aria che rendeva la fiamma più viva e sfavillante di quella ottenuta con qualunque altro sistema. E per un miserabilissimo centesimo si sarebbe ormai avuta la stessa luce che si aveva a 4 o 5 centesimi col vile petrolio, a 8 o 10 con l'ambiziosa elettricità, a 15 o 20 col pacifico olio. E il Lusol non richiedeva né costruzioni di officine, né impianti, né canalizzazioni. Non aveva egli dunque ragione di sogghignare? O fosse per la tempesta suscitata nella poca aria della sala dalle deliranti acclamazioni e dai battimani del pubblico, o fosse per mancanza d'alimento, essendosi la seduta già protratta oltre ogni previsione, il fatto è che alla fine del discorso dello Zagardi i lumi si abbassarono di tanto che si era quasi al buio quando sorse per ultimo a parlare il Colacci, il vecchio gigantesco dalla pinguedine floscia. Ma ecco, prima un usciere e poi un altro e poi un terzo entrarono come fantasmi nell'aula, reggendo ciascuno una candela stearica. L'aspettazione del pubblico era intensa. Indimenticabile la scena che offriva quella tetra sala affollata nella semioscurità, con quelle 3 candele accese presso il vecchio gigantesco che con ampi gesti e voce tonante magnificava la scienza, feconda madre di luce inestinguibile, produttrice inesauribile di sempre nuove energie e di più splendida vita. Dopo le scoperte mirabili di cui avevano parlato Lansatti e lo Zagardi, era più possibile sostenere l'impianto idrotermoelettrico proposto dalla Giunta? Che figura avrebbe fatto il paese di Milocca, illuminato soltanto a luce elettrica? Questo era il tempo delle grandi scoperte. E ogni amministrazione che avesse veramente a cuore il decoro del paese e il bene dei cittadini doveva stare in guardia dalle sorprese continue della scienza. Il consigliere Colacci, pertanto, sicuro di interpretare i voti del buon popolo milocchese e di tutti i colleghi consiglieri, proponeva la sospensiva sul progetto della Giunta in vista dei nuovi studi e delle nuove scoperte che avrebbero finalmente dato la luce al paese di Milocca. «Hai capito?» mi domandò Tucci, uscendo poco dopo nelle tenebre dello spiazzo sterposo innanzi al municipio. «E così per l'acqua, e così per le strade, e così per tutto. Da 20 anni il Colacci si alza a ogni fine di seduta per inneggiare alla scienza, per inneggiare alla luce, mentre i lumi si spengono, e propone la sospensiva su ogni progetto in vista di nuovi studi e di nuove scoperte. Così noi siamo salvi, amico mio. Tu puoi star sicuro che la scienza a Milocca non entrerà mai. Hai una scatola di fiammiferi? Cavala fuori e fatti lume da te». Fine della novella Le sorprese della scienza. Registrazione di Egi. Pesaro, www.anobi.com/2/books